B. Ascolta e controlla. 1. Quegli zaini di tela pesano quasi 10 kg con tutte quelle bottiglie dentro. 2. Cosa ti succede? Sembri avere la testa tra le nuvole. Mi succede spesso di sognare ad occhi aperti. 3. In questi ultimi giorni mi è mancata la voglia di fare un giro in bici. 4. Martino mi ha dato un bel pacchetto di biscotti al cioccolato per merenda. 5. Ho telefonato a mio cugino per dirgli che gli presterò la mia racchetta da tennis per la partita di domani. 6. La mamma ha messo la bambina a letto e le ha raccontato la favola di Cappuccetto Rosso per farla dormire. 7. Laura è entrata nell'ufficio del direttore e gli ha fatto il punto della situazione. 8. È stato proibito agli impiegati di fumare negli uffici.